Coca-Cola! Attenzione, binario 10, c'è qualcuno in ascolto, K! Chichi, chichi! Avanti, che avanti, chissà che... con la forzante, avanti! Attenzione, binario 10, c'è qualcuno in ascolto, K! Morio, non morio, cambia, cambia. Capami, finalmente posso modulare con questa antenna. L'altra mi dava anche molte di più stazionaria, cara. Com'è quella, va bene? Sì, la tua. Ma solo non ne ho, penso che non avvenne stazionaria, boh. C'era un motore staccato. No, tranquillo, tranquillo che non c'è nulla. Non ne dà problemi. E poi se ne dà, poi giù baedda. Cappa, sei alla te volta, a Santa Maria, no? Sì, sì. Mi siccome era acceso, pensavo ci fosse lo squelci troppo alto, che di solito vai, c'ho troppo chiuso e non sento nessuno. E mi sono avvicinato a controllarlo e stavo entrando in bagno a darmi la sciacquata, dai, se ci sei dopo. Ok, dai, non tengo acceso, una cannonata, sì. Ok. Ma che ti stavano fortissimo, tutto a Roger. Gappa. Cazzo, con questa mano posso modulare, cazzo. Quella là mi girava le balle. Cazzo, quella là mi faceva, a umido mi faceva salire a 1,6. Questa massimo 1,2, quindi, ma niente di particolare. Ma qua è la boomerang. Questa qua è l'altra Ringo, quella che mi ha dato babbo. Ma qual è che ti faceva salire in stazione? La boomerang o l'altra Ringo? Allora, io ho avuto la prima Ringo, l'altra Ringo mi ha fatto salire stazionare, questa no. Ah, meglio così, vuol dire che tu non fai lo tratta meglio, boh. Vabbè, là, a frappè. No, questa c'ha 10 anni di meno, c'ha. Ok, a frappè. Chi è avanti? Avanti, chi è? Chi è? Sono io, chi è? Prova. Sta un pochettino strappando, come mai? Ma già va bene. Santiago, 9.10 e Radio 5. Ah, capo, un'altra antenna costruita. Ma in casa ce l'hai. E sta va bene. Ma lo c'hai dentro casa? Al monte sei? Capo, allora ti conviene a te. Visto che è una cannonata. Ti conviene comprarti la boomerang, quella grande. Con quella non sbagli, con quella la metti lì nel terrazzino, guarda, c'è una cannonata. Dai! Cazzo di mamma doglia! Un fulmine è caduto, un fulmine si è sentito, hai sentito là? Cazzo, qua mi ha fatto spaventare. E cappa. Oh, senti il rumore? Ma vado a soltanto, quella tu la metti nell'avanzale e va che è una cannonata, va. La boomerang secondo me è qualità terrestre, è la migliore che ci sia in circolazione come antenna, perché io l'ho provata e ti posso dire che va veramente bene, va. Cioè, come antenna piccola è la migliore in assoluto, quella grande. La mini fa di gaga, ma la boomerang, quella grande, è la migliore. Chi ci andava? Santi? Chi è? Sì. Che voleva entrare? Non lo so. Comunque, da lì, gatto, quella va veramente forte, va. Chi ce l'ha è contentissimo. Sì. Quella della Lemme, l'originale. Ma gappa, faccio un pochetto di paura, gappa, si vuole. Ma chi è che vuole entrare avanti? Qualcuno ha bruciato. Ho capito. Davvero? all'infasi che ci chiede al volo, un gatto di chiuseria che c'ha bicicletta, fase la bombola. Ah no. Andiamo, andiamo. Topolino, bicicletta. Mamma mia, come sto? E come sta? E come sto? Quando non puoi uscire non puoi fare niente, cioè, per carità. Bisogna rimanere a casa, è vero. E vabbè, meglio. Sì, lo so, ma almeno il fine settimana. Uscire, dove vai? Adesso inizia il tempo brutto, c'è questo lockdown, alle 10 devi essere a casa, non puoi andare a mangiare una bistafora, non puoi andare a nessun luogo, capito? Anche se vai a cena a Porto Torres, cazzo, tocca a Drumi a Porto Torres, o al Ghero da mia sorella, come fai a rientrare? Cazzo di mangiare, risi di sera. Sì, il 4 c'è un matrimonio. Perché ci possono fare matrimoni? Vabbè, è una cosa proprio stretta stretta. Oh, tutti vicini vicini. Più o meno, cava la Berifella, cava la Cacarella. Ehi, allora, la macete la Zapparetta. Cava la Lugoi, Lughignarma, il fondato. Sono dormito nel divano. Adesso ci me ne vado un po' istante a vedere chi c'è. Ma. Che non ho nessuno. Col tempo brutto molti temono i fulmini. Ma temporale non ce n'è, ma acuto un trono ancora. Mamma le due. Io me ne sono abbizzato. E non era neanche molto lontano da me. Meno male non ha peggiorato, però detto, ma mi spengo l'altra parte, inizio gli alimentatori, capito? C'è un'altra presa, ma si è baciato tutto e ho commutato da questa parte, così anche l'antenna lì è protetta, ma visto per farmi due chiacchiere, l'ho fatto anche per questo, in modo che quando c'è tempo brutto d'inverno parlavo molto meno, sempre per paura dei temporali, capito? Almeno qua ci parte una di ghisti, non me la futti nulla, ma se parte la parte HF mi ci girano le balle. Beh, lì il danno lo fa, Questo ce lo fa. A vedere, non va, sì. Però stai parlando con un baracchino. Certo che bisogna stare sempre attenti, vabbè. Ancora già si può parlare, se vedo che inizia il temporale, fulmini, stanotte dice che era il peggio. Ma domani no, però domani non ne ha messo acqua. Dice che rinizia, oddio, non piove da domani, che l'allerta mette sino a domani pomeriggio alle 6. Ah, ho capito, ma non qua però. Praticamente dalla Gallura sino a Cagliari. Ah, ho capito. Vabbè. Bene sta andando questo microfono? Sì, alla grande. Ehi, sempre l'Intec che sto usando. L'Intec. Si è attaccato un filo, là, c'è ancora attaccato. Collegando il connettore all'interno, si è attaccato il filo del bip. Dovevo collegare, mi dimentico sempre. Domani me lo vuoto. Ah, il famoso quello là. Ehi, il filo verde si è attaccato, non si capiva dove cazzo me l'aveva attaccato. Adesso me ne sono accorto, c'è il turbito e non funziona. E quindi deve essere quel filo lì che si è attaccato dall'interruttore. Qui cosa vuole rientrare? Saverio. Oh, Saverio. Saverio Paletto di Pizza. Sì, prima c'è lunga, che è vuole rientrare, poi vuole una pari, sta cercando un baracchino con più canali. Stavo a spendere molto. No, io non ne ho. io non ho più, quelli che ho sono tutti vintage e me li tengo, questo anzi, questo è il DAC, sono quelli che hanno più canali, gli altri sono tutti 23 canali. Positivo, gada. Sì, lunedì ne prendo un altro. Vintage e lo metto sopra il DAC. Capito? Lunedì. Molto probabilmente un altro ancora. Devo completare questa scrivania, ma gli spazi tutti non mi piacciono. Claro, non ho spazio, ce l'hai. No, io prendo di comprare. Boh, finito. Se vuol dire finito. Ma roba da poco, sacco barà, due vintage, 160 euro, 80 euro l'uno, va. Già va bene, già va bene, no, sono belli, grandi, base, sempre base 220, non voglio baracchini sono dentro l'armadio, manco uno ce n'è qua fuori, sono tutti bassi, capito? Ah vabbè, se sta cubarato già andava, là. I 2,80 euro l'uno, capito? 160 euro per due. C'è un altro MB più 5. E là, vediamo. O faccio le connessioni, c'è un altro microfono da tavolo. Quello delle game. Taglio quello lì. Il connettore glielo faccio mettere a 4. Ho capito. A gigabit. Vabbè, che si può fare? Antonio bicicletta. Sì, buonasera a tutti, buonasera, come va? Già va, piovendo sta. E già si intende, no, Guillermo, già si intende un grabo, come? Un gatto di cernaglio. Quello quando piove un bel rompe le palle, no? Perché ce l'hai in camera da letto l'uccernaio, no? Scappa le radio, ce l'ho qua, ce l'ho. Allora mi sono cazzo scatta, ho visto un fulmine. E tu ne ha drone, allora tu. Sì, ya. E oggi vaggio, antenna e oggi, baracchino l'uccernaio. C'è tutto quanto. Però me lo sta tutto, sono gucato. C'è freddo, 10 gradi ci sono fuori. Vai Lugarie. Positivo, grande, ci sono problemi, grande. Anche no, non te lo vendi chi su colte? No, non ve lo berà, c'è meglio qui. Ma non ha di là per comprare l'assilo. Cioè non devo impendire. Un panetto di pizza ti fai là. Raga. Saverio anima lunga. Ma Saverio non c'ha più niente. Ma lo so, Luca l'ha sentito, non c'ha più niente lui. No, ce l'aveva di serrotto il baracchino. Ma quello che c'aveva letto. Ehi, è caduto in tre sotto la scheda. Se non appunti, non ho buttato la faccia della scheda. No, la scheda proprio, la scheda male, la scheda, la quella grande. Capito? Quella grande. La manto fa gabata nera. Cosa tu? La mantova ne ha tolta. La mantova ne ha tolta, ti sei fasciata, non si vede nulla. Quindi l'ha tagliata lo tecnico, l'ha tagliata proprio da te con la moletta, c'è si può che sei incazzato. Certo, ma sei incazzato un bel sapere. Come l'ha tagliato i miei ragnali con la moletta? Anche lo tecnico, non si abbia smontato, perché le non si fanno le cose così. Sei incazzato, niente salvito, incazzato. Infatti ha detto, non mi so come andato, sennò guai ha detto. Ma se mi avevi toccato l'antenna, cazzo, l'avevi tolto sotto da Cristiano, mamma, scusi. Cioè, ha smontato l'antenna, non ho capito, ne ha tagliato il radiale invece di smontarli. L'ha tagliato con la moletta. Ma che mi avete esaurito? Bucla, non mi so. Io devo dire che... Allora ce l'attacca il culo, vice antenna. Infatti ce la voleva comprare Stefano, principe. Siamo passati, ma te la mette luci? No. Tutta rotta. Vabbè, dai, mi assento 10 minuti, ci sentiamo dopo. Ehi, va bene, tanto mi sono qua ancora col baracchino. Se calma l'acqua e non c'è tempo brutto, perché qua sta piovendo un bel. Sono fulmini, capito? faccio con l'altra, se no rimango con questa, già mi sentite lo stesso. Avanti anche tu. Scappa. Mamma mia, ci mi abbia toccato l'antenna, ma è cazzo. Minimo l'avrei spaccato in due. Se vuoi altri via, tu cambi l'antenna e non che. Cazzo, meglio che su manganello rispacco un capo. Insomma, quando uno è incompetente, cosa ti fa? Cazzo, ti dico, staccami l'antenna e tu mi rifacci, cosa ti fa? Secondo te? No, no, gli aver rotto il culo io, cioè, fa una cosa del genere. Oh, prima di tutto non le faccio toccare a nessuno di queste cose perché sono cose che devo vedere io e boh. No, non affido a nessuno. Cazzo, ti vai a Egico, cioè mi stacchi l'antenna con coso. Ma quello ci vuole delicatezza, ci vuole pure per fare quel lavoro lì. Cioè, mamma mia, se me l'avevi toccata a me. Ma lo sai come l'avrei sgonfiato? È meglio, guarda, era meglio che non si faceva trovare a Sassari, perché l'avrei spaccato in due. Qua sei più forte che voi, ma se mi fai capo cose del genere qua, cazzo di. A colpi di tubacabo di biglio. Perché sono cose che non si fanno, ti dà fastidio. Non ho capito. È come quando sono andato ad Anna Gianni a montare l'antenna nuova, cazzo, la mantova mica l'abbiamo fatta a pezzo, anzi l'abbiamo recuperata cercando di fare meno danno possibile, e tanto è vero che l'ho recuperata, l'ho rifatta tutta nuovo, ho boccolato la sede dei radiali, ho messo i radiali nuovi e l'antenna sta funzionando, perfettamente funzionando. Cappa, queste cose ci vogliono delicatezza anche al montarle, non è così, no. Non è che vi voglio che ci pittuno. Io quando ho smontato da una all'altra sono stato attento facendo il lavoro. Non stai scherzando, quella là sono stato attento anche smontandola. Cioè, sono cose che vogliono sapere anche fare. Cioè, però fammi danno, no, cazzo, fammi danno ti sgonfio. Cioè, ma stai scherzando. E poi io proprio ci tengo le cose. Se mi fai danno a una radio, mi fai danno a un'antenna, cazzo, minimo di bicicco, cioè proprio è meglio non vedermi incazzato. Cioè, per una cosa del genere, e poco ci tengo meno alle cose mie. È normale, Antuca, è normale, ma non si può, cioè, fare una cosa del genere. Cazzo, molesta, mi dà il radiale molesta. Non lo so qui, a razza di cose. Io non lo so, come sono a vitatura o a vita, non me lo ricordo come sono quelli. Non mi ricordo come sono, poi non bastava lasciarla stare, tanto non vivi sempre in Kiwi. Cosa togli a fare? Vitatura, sono a innesto e poi ci va la vite sotto, no? Sicuramente ci sono spezzate le viti, capito? Hai tagliato la moletta e ne ha tagliato tutto. Beh, è un lavoro molto delicato, che vuole saputo fare, ci vuole pazienza. Dopo fare impresa una sigata tutto con la mola, c'è un casino. Bisogna trapanare tutti i fori, tirare fuori perché sono bronzati, capito? Ottonati. Quindi bisogna fare tutti i fori nuovi, un casino. E poi i radiali ce li ha tagliati dove c'è proprio l'attacco, non servono più. Sono lampati, quindi bisogna mettere i radiali nuovi, fare un bel lavoro, peccato. Bisogna metterli, dove mettere il radiale? Ci vuole la vasellina dentro per non succedere problemi. No, sono di ottone, Anto. I radiali della mantova, quelli in fibra, no? C'è il pezzo che entra dentro la base, è in ottone, capito? La cosa che devi proteggere bene, puoi metterli anche il grasso e infilarli, ma la cosa che devi proteggere bene sono le viti. Sono le viti che devi proteggere bene. Io le ho riempite tutte e quattro le viti completamente di grasso, ma non grasso di vasellina, grasso di cuscinetto di macchina, capito? Grasso, devi coprirlo di grasso, se vuoi che non ci. Che quando vai, io ho fatto manutenzione quest'estate, quelle belle giornate che hanno fatto a novembre, cos'è che su questa estate? L'ho portata da una parte all'altra, l'ho tutta smontata, visto che era in terra, pulita tutta, riassemblata, i radiali mi ero tutti a mano, con cacciavite, tutte le viti, svitati i radiali, pulita bene, ripiazzati, capito? E l'ho riempiti tutti di vaselli di grasso, grasso, grasso, anche nel piede, tutto pieno di grasso, non viene di vulcanizzante da me. Non esiste, il vulcanizzante è solo nel tubo centrale, il resto è tutto grasso. Sì, l'ho fatto anch'io così, però gli ho messo quello di vaselina, gli ho messo, ma l'ha giubbinato davvero però, per non avere problemi, ho fatto anch'io così. Ah no, vaselina è troppo, troppo fine, si asciuga, capito? No. Grasso, grasso di cucinetti, che fa spessore, mi. Capito? Fa spessore. Guarda, io ce l'avevo, ce l'ho ancora, il grasso proprio di cucinetti, il grasso di macchina, quello mesh, capito? Lui l'ho messo nel PL, mi piaceva Luca con l'altro Luca, l'ho messo nel PL delle direttive, quelli che arrivavano al commutatore d'antenna. Quando li ho smontati li ho fatti vedere a Luca. Luci, luci, luci, ma non sono dei lucidi. L'ho prima pulito dal grasso con lo straccio e poi l'ho smontati. Luci, luci, luci. Dentro e fuori, eh. Adesso li faccio lo stesso trattamento pure io. Appena che adesso ho lasciato questo grasso di vasellina, però appena che li faccio lo stesso trattamento anch'io, un cuscinetto di macchina, chi si dice cuscinetto e mucinetti, così ci andava a me. Ah, quel grasso, cioè, fatto apposta, capito, per l'acqua, per... cucinetti, quel grasso per cucinetti di Guigliardino, è un barattolo su mansarda, e boh, anche all'altra antenna che ho piazzato, quella piccolina, lo stesso, nel PL all'interno, anche se è protetta dal tubo d'alluminio, no? Perché va dentro, riempita di grasso, in modo che quando la smonto, è così, si... senza, non tocca l'acqua, capito? L'acqua scorre. Ah, il piede della Mantova, si attacca sotto, non si mettono quel cappuccetto, è una cosa che non si mette, perché è proprio lì che si deposita l'acqua. Il mio è libero il piede, è tutto pieno di grasso, ho fatto una palla di grasso. Avanti! Chi è? C'è qualcuno che voleva entrare, avanti! Ah, avanti, chi vuole entrare? Io sono col baracchino, tu. C'ho 3 watti, se mi senti, se no cambio radio. A voi che ti tengo qua. Ehi, ehi. Qualcuno che ha voluto salutare sopra, vuol dire che non vuole entrare sotto. Una cannonata e no, che ho qua. No, vabbè, sto usando questa radio, perché c'è tempo brutto, l'altra parte si sta spento, capito? Quindi ho commutato qua, non si sa mai che arriva anche in barriata di fulmini. Che cazzo, pensavo entro lo microfono brincaga. Quell'altra parte è più protetta, capito? C'è il commutatore a zero, e ho commutato l'antenna a questa parte e uso questo, beh. Tanto per fare 2 chiacchiere non è che cambia molto. Ma cos'è l'Intac è quello? Sì, questo è il 3104F con l'MB più 5. Ah, scappa. Ma il DAC non lo usi mai? Ieri stavo usando il DAC, l'ho mai sentito. Quando stavo facendo le prove con Marco stavo usando il DAC. Sì, è qua vicino a me il DAC. È qua, è spento. Non devo accendere, lasciare riscaldare un pochettino e poi commuto l'altra antenna, la terza antenna, funziona tranquillamente. Anzi, adesso lo accendo, lo facciamo andare, dai. E scappa. Ma un bel consuma di San Radio. Che consuma, tipo, cioè, la batteria. No, normale, adesso. Normale, c'è un pochino più il watt di questa, perché... c'è lo stadio finale a valvole, capito? Quindi un po' più, quando scalda da 10-12 watt, così. Va bene, l'ho accesa, adesso lasciamo scaldare un pochettino, poi il commuto, tanto c'è già l'antenna attaccata, devo solo commutare il tricaballacche. cassa del scappa. Quello lì già, cioè, vabbè. No, perché dicono che a Valvo le consuma molto, non è vero. Ah, tengo poco che gatti se fece io ciò, magari mai consuma. Le valvole certo ci consumano con l'andare del tempo, ma non è che consuma a corrente, no? E Buruchita va a 2,20, anche l'altra a 2,20, anche l'altra, sono tutte a 2,20. Queste che io mica consumano, cazzo, sono già consumati. Vabbè, l'unico che consuma è quella bestiolina che vuoi entrare l'armadio. No, non è più dentro l'armadio, ma tu. Nell'altra scrivania, nell'altra base, a metà, sotto la base, perché c'è il posto per mettere altra roba, l'ho messo lì, capito? Però non è collegato, No, antenna non ce n'è attaccata, capito? C'è la 220, sì, ogni tanto per accenderlo, ogni tanto lo accendo, lo lascio in stand-by. Se l'ho messo a capitale ci vuole poco attaccarle uno spezzone, Basta non scidarlo, lui sta dormendo poverino, basta non svegliarlo e nessuno lo cerca. Se lo svegliano allora diventa cattivo, abbaia. Già lo so, già fa. E io ci vado male, vado, capito? Infatti io sono tranquillo e sereno. Se poi serve per fare qualche prova, siamo qua. Ma poco me ne affutti, chi ci consuma corrente? Quello sì che consuma corrente. Ma dice che anche l'antenna un po' la va di sciocchità. Un po' carino, dai. Entro l'impianto, l'antenna, il radio, c'è 100 watt d'ingresso quel lineare, non è che va 5 watt come se dici di trattiamo i baracchini, no? 10 watt, quello c'ha 100 watt d'ingresso, P&P, io gliene lavo, adesso lo sto usando, ma gliene lavo 70, 80, insomma, usciva un bel forte. Già lo so, anni fa magari lo utilizzavi, che sarebbe una molletta la paura da voi. Sì, anni fa, anche quest'estate abbiamo fatto alcune prove, anche quando eravamo in lockdown a marzo, l'ho provato, ma non è che di lasciare il burro a lei, una fitta c'hai a me. Capito? Già va bene così, ti ripeto, l'importante è che ci sentiamo. Ogni attacco fa tanta roba. Ehi, chi ce lo sta andando a livello? In campagna se c'è qualche impianto di gruppo elettrogeno, allora ci lo puoi far andare. Ma con la ruta di Lenel, mamma mia! Infatti il coso era quello lì, fare un bel impianto in campagna, indipendente, ma cazzo che andassero il gruppo elettrogeno, allora già come ti intendi, cazzo male, molto vendi quello molto picco. No, sei quelli super silenziati e buoni, grande, buono, di chi sei proprio buono e non intendi molto piccolo, stai tranquillo, sei di chi sei buono, ui. Io sono già abituato, cioè comprare un gruppo elettrogeno per far funzionare un amplificatore e per farvi dei gocci, ma ce la prende in culo, no? Non è necessario, già va bene, ci sentiamo tutti lo stesso. Già buia, già non credo via. Poi ci vedo che fate lo marco, che poi è importante, basta trovare la radio e ce la prende il culo. Ma cosa, cazzo? Per un solito bucarotto e fatto la pernacchia, E io, già c'è anche quello che non facevo la pernacchia, ci mette a disturbare, ti ripeto, io ho finito, tanto il bisticciare con la gente, non me ne futti nulla, Sarraggio, io spengo e vado a guardarmi la televisione, oppure abbasso il volume e me la guardo qua la televisione, non ce n'è problema. No, già. Vabbè, lo sai cosa è? Ma quando sono qua sono un pochettino più tranquillo. Prima era... Mi rompevo perché caso c'era quello... vicino a casa, mi puniva la portante, non mi faceva sentire nessuno. Mi avevo le palle piene, mi... ma una volta te l'ha messa lo stesso anche quando eri lì. Quando ero lì me lo faceva. Ma i noghi cosa fate? I noghi no, non mi fa niente. Come fa? Perché poi io mi giro di palle, mi metto soldi da parte che se mi piglio a rovinare le poste, da poi voglio vedere che buono ancora l'apportante. Ah, a te che cambia il radio, tu? Appa. Sì, Franco, buonasera. Sono in compagnia di Claudio, vedi, si è cambiato il radio. Sai che sta commutando? Stai utilizzando. Cos'è? La 48, no? Quello che stavo usando poco fa. Adesso vediamo se ha commutato Claudio. Ehi, già commutato, vai. Mi è entrato Franco, è entrato. Franco chi? Franco California. Ah, mi senti, bicicletta. Quasi 79, cifra. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Già ti accoppio, dai, non c'è problema. E io sto andando col baracco, ma anche se è grande, questa è una baracca. Col DAC sto andando. Bene, mi ascolti anche tu. Cannonata, sì, no. Okay. Anche da te, Fra. Hai 109, sì, già va bene. Ma differenza c'è Anto di radio? Più bassa o più forte dell'altra? Meno... Quella sembrava un po' più... tipo saturina. Questa qua è perfetta, questa va bene. Ma non capisco perché. Quell'Intec c'ha la radio saturina. Avevo un microfono, che se no non ne gioco. Tengo anche basso, lo tengo a metà, non lo so, questo è a 5, questo è a 5, vabbè, ho già questi dichi. Radio Vici, già, avanti Fra, lascia stare, già va bene, non c'è problema, stai andando magnificamente bene Fra, non problem. Anche ieri me l'ha detto Marco, Antu, che l'Intec tende a saturare, non lo so, diciamo, mi ha detto le cuffie, devo aprirlo per fare una cosa, non sai perché, eh? Perché l'ho tirato al collo, le ho tirato al collo, capito, gli ho tirato al collo e quindi devo riportarlo come era, forse per quello che sattira, riprendi Antu. Questa è una cannonata tra Mao Cla, chi ci andava bene, perfetta. E qua sei 9 più 30, sì, radio 5. E anche tu c'è sul più. C'è un beato qua. Va bene, va bene. Ottimo per la truppa. E questo sta dando, vediamo nel coso. Allora, questo è lo strumento, calibrazione. Cannonata, a voglia. Andiamo. E allora Fra, cosa mi racconti? In casa c'è un po' più, appena cominciato a fare va. Andiamo a febbraio e a marzo, giù, ma io ci affendi nella zona del Capitano. Mamma mia, come sto? Visto cosa è successo a Bitti, io Cla. Sì, ho sentito anche un ex collega, io, cioè, ci sono tre morti, un casino che Gesù Cristo ha fatto. Mamma mia, cara. Molto forte ha piovuto, molto. Speriamo. Ma che ha piovuto, sta ancora piovendo, e sanno ti dice che è ancora di più. Così hanno detto. Vabbè, comunque c'è stata l'allerta meteo da parte della protezione civile già da due giorni prima, quindi ad esempio Orbi hanno chiuso le scuole, ha chiuso tutto. L'Ucidaco di Bitti invece non ha fatto nulla, l'ha fatto da voi. È chiaro che ti ha preso in contropiede, ma nessuno se l'aspettava, capito? Ha fatto una bomba d'acqua, ha fatto una bomba d'acqua, ma forte proprio. Bomba d'acqua, è da ieri sera che sta piovendo, tu, è da ieri che sta piovendo, ma sono rifatto tutti i fiumi, tutto canto, ma sono rifatto, capito? È da ieri sera che sta piovendo forte. E chi t'hanno la pigliata così? L'anno scorso era in secco, chi t'hanno la pigliata così? fagliela prendere così, oggi lo metti in chia. Già va bene, vai, va. Che mi è capato, anche la luce ti devi pagare, guarda te. Mi sei in casa. Cazzo, cosa fate, c'è tu là? Praticamente va in protezione, va. Ma la vendi? Ma la vendi? sono innamorato di quella radio. È una cannonata, Sento che ce la pone in onga, sento la salimentatore. A vedi si schirreggia. Allora sì che pompa. A voi che pompa forte. Già va bene, già. Ancora non va. Non passati mai, cioè, non so anche io, ma sono giù un soldo, ma più che altro faccio un sonno, sono con tutto romanzano, vendi, e rivendi, stamani mi ha già fatto un poco di guizzi puro, e penso che quasi a fine anno do l'esame della patente. Perché mi sento sempre più convinto, sto facendo pochi errori, 3, stamattina ne ho fatto un al volo 4, 2 ne ho fatto, 1-3, 1-4, dai, sempre promosso, ce la facciamo, va. Mi gioco bisogno della patente, della macchina, e gara. Ah, ho capito, no, io mi prendo la patente della macchina. Ma no, voi la mia che te la vendo, intanto non faccio più nulla io. Sta rubati, però, qua. Ho detto, frate, voi la mia che te la vendo, intanto non faccio più nulla io. No, fra, io la patente me la tengo con la licenza perché ho le radio, quindi per la detenzione, ma non facendo attività io non ho mai avuto quella grande passione. Rispetto chiaramente ai miei colleghi che ce l'hanno, la passione di fare, ma io non ne ho mai avuto, fra, io l'ho presa per lo scopo ben preciso, lo sai, ne avevamo parlato, perché avendo tutte le radio che avevo e che ho ancora, è chiaro che devi essere protetto solo per quello. Poi ho speso un po' di soldi per farmi un impianto d'antenne, ma non fa fra qua, non dormi, e allora per non dormi mi ha giubugato tutto. Tutti gli HF, i V, i U, capito? Anche 275H ho venduto tutto, non c'ho più niente, è inutile intanto, non c'ho la passione, è inutile stare ad avere tutta la roba lì ferma quando non la usi, non mi interessa. Faccio il CB e muoio il CB, beh certo, è io la stessa cosa, qualcosa l'ho lasciata, ma no. Interessa giusto per ascoltare, se devo salutare qualche amico, capito, un bimbanda, c'è l'antenna, tolto anche la 510, l'ho regalata a Luca, non mi interessa, c'è un'antenna piccolina, una X30, mi pare una X50 piccolina, giusto così se devo salutare qualche amico, ma niente di particolare, capito, e va bene, e ho realizzato anche un bel gruzzoletto, l'ho messo da parte, non si sa mai, ho detto, ah, vediamo più avanti se mi riviene magari la passione comprare qualche radioserie di ultima generazione, ma sarà molto difficile. Oh, datemi un attimo di bianco, dai, che io devo fare una telefonata un attimino, già sono qua, ok, riprendi a tutti. Capa, no, io non sarei capace pure io di, perché non conosco le lingue, cosa le dico? Cioè, va a girarmi il coglione, scusa, siamo per girarmi il coglione, cosa cazzo vi dico? Non conosco le lingue, quindi dovrei conoscere almeno l'inglese, bene. Questa è quanto un'altra cosa. Non ci sono, io volevo fare il CB, non sono capace. Di fare radioamatore, cosa che sto buttando qua? Forse un secondo futuro, ma non so. È occupato il telefono, va bene. Dille che ci piace io, fra. Ma non conviene, oddio, Anto, se hai voglia di fare, è chiaro che ti devi mettere all'avanguardia, devi stare al passo degli altri, se hai voglia di fare, rispetto, io rispetto quelli che hanno voglia di fare, ma io non avendo mai avuto la passione come hanno gli altri miei colleghi, non ha nessun significato tenere tutta quella roba lì ferma senza usarla, tu capito? Assolutamente. Non è che ho altri problemi, assolutamente. È proprio un problema di tenere la roba lì ferma, a guastarsi e basta. Cappa. Sì, lo so. Guarda, io con quei soldi me li avrei tenuti un po' da parte. Siccome sono appassionato di musica, mi avrei preso due belle casse migliori di quelle che ho. Non è detto che non siano migliori, perché pure queste che ho l'inviato a pompa, a Malagrado. Perché sono più appassionato di musica, non li avrei spesi quei soldi. Li avrei spesi più sulla musica, perché mi piace più la musica a me. Adesso Andrea. E che è il tuo cognato? Conosco, vero? Ti riconosco io. Beh, fai volta, ma sei referuto professionale. Ma che cosa è? Ma va, non mi vede un uomo. Ho capito. Pinuccio. Ma avrei cambiato queste casse. Ma non è che continuo tanto, va. Ma avrei cambiato queste due casse, ma avrei cambiato. Ma queste le avrei tenute lo stesso. Dici già pompano gli altri. Un po' di luci nuove. E qualche serata l'avrei fatta. A me mi piace la musica, mi piace. Mi piace molto la musica. Sì, le piace io, le mie, anche se non sono potentissime, ma fanno la sua parte, fanno. 301 sono. Sì, buoni con lo stativo e poi ci va, pompane un bel. Dentro una sala io li ho provate, ci siamo divertiti parecchio. E poi spingono un bel. Sì, sì, 300 watt c'è in tutto. Lo so, so. Sì, lo so, fra. Lo so. Pure io ci voglio, mi ripiglio me. No, a me mi piace perché io ho la passione per la discoteca, quindi. Cioè, e ti voglio mandare davvero, ya. Io se mi chiamano già faccio qualche serata, non è un problema, sono di nato, sono capace, ti fai niente, ti fai. Avanti. Faccio io la passione per la patata. Già lo so che mi fa passare per la patata, pure io l'aggio. Buonasera Marini. Cara che non ha la passione, pure io l'aggio la passione, ma un bel puro. Mi lugare, dai, riprendete, scusate, interruzione, non mi ascolto, sono sistemando pure roba, là. Ciao Franco, riprendi. Un'ora sistemo la roba, sono tutta accesa qua. Allora, là. Bisogna ascoltare, sai, bisogna fare pure esperienza, no? Ok, riprendi Fra, quello che ti prende, dai. Fra, se ti rispondo non mi ascolto bene, dai tranquillo, sta arrivando una bomba, sta arrivando, dai. Cappa, ma vabbè, non ho mai segnato, non sei fortissimo, ma arriva. Ma lei è già arrivato a cantare la sessione. E dobbiamo essere antenna. Cappa. Lo so. Vabbè. L'importante è arrivi. Tranquillo che ci piace chissà, la regola di vecchio, una bomba, non è bisogno di un manto, va. E chissà già pompa, ya. Cappa, ma non fa più cazzate in questa antenna, vedi. Se buttiamo si tronca un bar, allora. Meno male. Ma tutto, anche il radiale, tutto a posto, sì. Che si aspettano subito. Sì, sì, metteli come erano gli originali, che sono meglio. Capisifra. In retroregina siamo buone. Vabbè, che ho visto senza manto ma turbo che sono ancora a posto. Va bene, sì. Per la sopra. Sì, avanti. Buonasera, ciao Arturo, ciao Franco. Buonasera, chi è? Un uomo della frequenza. E basta. E il cazzo, sono bellissimo oggi. Buonasera, Emanuele. Ciao Antonio, se lo vedessi qua, lo fa, sarebbe bene. Ma adesso si a monte. Sarebbe bene, dai. Pure io già ti arrivo bene, dai. Vai, pure io già ti arrivo alla pedolce. E tu sei sulla scala. Stava a salire in aria, cazzo! Sì, sì, la giornalità è grigio, pensando... tu sei una buona zona, lì. Sono con lui, Sciumi, non c'ho niente attaccato. Sono solo col baracchino normale. Lascia la testata, deve essere lui, è una bella zona, capito? Cazzo, 3:40, tu la metti? Cazzo, già si è uscito su 4:40, da solo vi ha fatto. Allora non è solo una mia sensazione, no? Chi c'ha pompa è più pompa, perché prima ti arrivavo molto più basso. Adesso ti arrivo fortissimo, ti arrivo. Questa è migliore di erogazione. Questa è la vecchia Ringo che facevano 10 anni fa. Ehi, ce l'ho avuta anche io, Artù, te la Ringo lì, ce l'ho avuta anche io. Solo che quando pioveva ti si aumentavano troppo le stazionarie. Ore 2 sono qua, va bene. Già va bene. Se va nel 2 se va niente, se va andando da montagna, se deve andare in gita. Cazzo, non so, antenne da piazza passazione fissa, no? Sì, la mia non entra acqua. La mia no, l'ha piovuta, cosa, quando l'ho smontata non c'era un filo d'acqua. Ha fatto pure parecchia acqua, ha preso, Non vedo un filo d'acqua per entrare l'antenna. Oh, fra! Ma come cazzo se non ti avevo dato con le casse alte? Ancora ce l'hai? Cazzo, sì, che il cazzo se ne ha vivo. Bello, bello. Le casse addirittura le ho comprate quelle cose, mi sai che c'ha quelle cose di musica dopo Piazza Castello, Piazza d'Italia. L'ho preso lì. Cazzo c'è sotto? A lui che lo conosco. Dai, ci domino. E allora, buonasera a tutto già. Siamo qua in compagnia con Mao Franco e con Antonio Bombolo. Dai, i soldati tutti si profanello per tu vuoi. E indirizzi. E allora, che di cosa si parla? Di serio. A me voi mi sembrate tipo la giunga, che non va zera tutto in casa. Cosa? Ciao Torino, buonasera, sto che mi ascolta. Sempre ti ascolto, 9:15, 9:05. E a me che non mi intendi? Oh, io non sono a Sassari, quindi... Ah, non sei ancora a Sassari? Sono in periferia, sono 4 km da Sassari. Sono rientrato, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti, dai, chiedo il telefono. Ciao anche a Manuele, a Franco e Antonio, già li ho salutati poco fa.